A parte vieni qui a far diventare proletari due come noi. A parte il fatto che andava a fare una bella settimana in cantiere a tutti e due, non vi farebbe manco male. Ma tu dici? Io ci andrei volentieri. Non l'hai mai fatto. Lui le mani. Non avete mai lavorato in vita vostra. Andate a rompere i coglioni a quelli che lavorano. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Appena smollato la mia ragazza venezuelana, mi sto dirigendo verso casa dopo 10 ore di lavoro. Sullo sfondo le luci di Panama e il podcast della Zanzara. Siamo al top, siamo veramente al top. Allora ragazzi, forse è una piccola notizia, ma è abbastanza significativa di un clima assurdo che ogni tanto si crea in Italia per delle stronzate. Allora, Parenzo, tu sei in Israele. A Tel Aviv, nella civilissima Tel Aviv. Bellissima città, non c'è dubbio, stupenda qui città. Qui sono peraltro le 7:15. Beh, anche qui sono le 7:15. No, scusami, no, qui sono le 7. Le 19:37 sono. Ah, 19:37, ok. Allora, devi sapere, ma so che tu hai una posizione, avrai sicuramente una posizione diversa sì, dalla mia. Sentiamo. Un ex calciatore molto noto a chi si occupa di calcio e non solo, che si chiama Paolo Di Canio. Di Canio, super fascista, nel senso che si è dichiarato nel passato fascista. Adesso no, ma ha fatto anche il saluto romano in campo, poi ha fatto delle porcherie inaudite. Ma che porcherie inaudite? Non fa nessuna porcheria, cioè non fa alcuna porcheria. Ma non fa alcuna porcheria, è un grandissimo professionista. Adesso risulta normale anche fare il saluto romano. Ma è una roba vecchia, è una lista della normalità. Vabbè. È una roba vecchia. Poi uno si può tatuare sul corpo quel che vuole, per carità di Dio. Allora, il signore lì Di Canio, omen nomen peraltro, Di Canio. Stai subito partendo male, sbagliando tutto. Non volevo arrabbiarmi. Il medico prima di prendere l'aereo per dire guardi non sta live che lei già soffre di cuore, in particolare mi ha detto non faccia la zanzara perché altrimenti lei somma la pressione dell'aereo alle porcherie che sente da dentro e quindi sta male, quindi non posso arrabbiarmi perché ho la pressione dell'aereo già ancora da superare. Allora, aereo Elal? No, all'Italia che si è occupato dagli arabi. Come? Ah beh, ci ritengo fondamentale questo. Ho scoperto questo, che ti voglio dare questa notizia clamorosa. Ti portano il pranzo, un pranzo negrista, per avere un pranzo veramente poverissimo, due panini miserabili. Allora, Parenzo, due punti. Il pranzo sui voli all'Italia è miserabile. Guarda, signor Monsignor, io non so chi è, adesso siamo ancora, diciamo, Montezemolo. Diciamo che qualcuno arrabbia, Etial, magari. Ma comunque, due panini così. Ma la cosa bella è che c'era un biglietto dove c'era scritto sugli aerei all'Italia non si serve maiale. Cioè, e non lo hanno fatto perché io non avevo chiesto nessun pranzo particolare ebraico come avrei potuto, non l'ho fatto. Quindi per darti la notizia che da quando è stata comprata, questo è molto bello invece, da quando è stata comprata dagli arabi Non servono maiale, non servono maiale. Ma io adesso mi incazzo perché voglio il maiale invece. Cioè, io adesso invece mi incazzo allora perché vorrei il maiale sull'aereo. Voglio mangiare il maiale. Adesso mi pare di aver capito Mamma così. Mia. Che questo è veramente uno schifo di politicamente. Qui non serviamo maiale, ma chi se ne frega? Questa è una cosa che potevo apprezzare. Vedi che gli arabi ogni tanto qualche anno portano qualcosa di buono. Allora, ragazzi, è successa una cosa. Ritorniamo a quello che tu hai chiamato il fascistissimo Paolo Di Canio, che non ha mai nascosto le sue passate simpatie. È un grandissimo professionista. Io lo considero molto molto bravo. Ha fatto anche l'allenatore, eccetera, eccetera. E ha, tu questa cosa non la sai perché. Anche Mussolini magari è stato un bravo maestro elementare. Ma cosa c'entra? Sono due cose diverse. No, ho detto Mussolini era un maestro elementare, magari, anzi, un bravissimo direttore dell'Avanti. Cioè, beh, è stato un bravo giornalista Mussolini, ma probabilmente sì. bravo direttore della Lazio. Dai, sono cose diverse. Quello lì sa calciare il pallone, sicuro. Umanamente cos'è? Beh, se devo giudicarlo per quel gesto che ha fatto, lo giudico. Vabbè, comunque sul braccio il signor Di Canio ha tatuata la parola Dux. La parola Dux. Non è che uno se la può cancellare, anche se magari lo vorrebbe fare, oppure non lo vuole fare semplicemente perché è una cosa che ha fatto nel passato, e non è che uno rinnega quello che è stato nel passato. La Boldrini gli farebbe tagliare il braccio, forse, per lei, credo. Beh, non lo so, speriamo di no. Comunque, la voleva cosa far abbattere lì, voleva è apparso in un video, è apparso a maniche corte in un video di Sky, in un video credo promozionale o in un video, o forse non promozionale, non lo so, comunque non sulla televisione, ma in un video promozionale di Sky. E con la parola Dux tatuata, non è che non sanno che c'ha questo tatuaggio, non è che non sanno quelli di Sky come la pensa Di Canio. È stato sospeso. Bene. È stato sospeso. Ma bene, che cosa? Ma benissimo, dico, ma- giusto. Ma bisogna fare una grande battaglia di libertà. Uno, quale battaglia uno di libertà? Può tranquillamente farsi tatuare la parola Dux o la parola Stalin. Sì, però la, siccome la vergogna non dai, lo ha mai su, ma dai, investito, David. Non lo ha mai investito. Almeno va andasse in giro con le braccia, con, come dire, con le maniche lunghe. E faccia vedere queste schifezze io stamattina ai mi ero, suoi affetti più cari. Io stamattina mi ero segnato questa cosa. Spero che Sky non faccia la grande cazzata di mandarlo via o di sospenderlo. Fatto benissimo. Perché ci sarebbe da fare una grande battaglia di libertà. Ottimo Sky. Di Canio libero. Io non ho una grande conoscenza di Di Canio, non ho nemmeno un legame. Ma non c'entra niente, non ho mai avuto un legame, ma semplicemente perché non c'è stata mai l'occasione. Dunque non sto difendendo un mio amico, non me ne frega nulla. È una questione di principio. Cioè, tu vai in televisione, loro sanno che lui c'ha questo tatuaggio in maniche corte, perché magari voleva andare in maniche corte, semplicemente perché c'hai un tatuaggio con scritto Dux, vieni sospeso. Ma dico, ma siamo pazzi? Vabbè. Allora, al di là di Di Canio, c'è la questione molto grave, come sai, del suicidio di quella ragazza che ha fatto quello che ha fatto, cioè dei video hot, dei video porno, dei pompini, diciamolo chiaramente, a un ragazzo per esibire ai suoi amici, davanti ai suoi amici, le corna che metteva al fidanzato, con una frase che ha fatto giro del web per tanto tempo. Questa ragazza a un certo punto si è suicidata, ma la cosa incredibile è che qualcuno sostiene che lei ha una parte di responsabilità. Cioè, la cosa pazzesca è che qualcuno dice: ma chi è che beh, dice se l'è cercata, se l'è un po' cercata. I webeti. No, i web non c'entra niente. Purtroppo l'unico problema è questi qua che hanno ricevuto video privati di questa ragazza, e li hanno fatti circolare sul web. Oh, Adinolfi è incazzato per questa storia con quelli di un sito che si chiama Welcome to Favelas. Sono gli stessi che pubblicarono a un certo punto il numero di Emilio Fede. No? Il numero di Emilio Fede. I signori di Welcome to Favelas. Dice che sono gli assassini della Cantone. Mi assumo la mia responsabilità e dico che gli assassini di Tiziana Cantone hanno nome e cognome e sono gli admin della pagina Welcome to Favelas di Facebook, che i dirigenti di Facebook ancora oggi non cancellano. Allora, vi leggo alcuni commenti che ho letto su questa vicenda. Nessuna di noi è vergine, compresa io, dice una che si chiama Alessandra Giordano. Ma lei di santa non aveva nulla, se l'è cercata lei, mi dispiace, ma certe frivolezze hanno sempre delle conseguenze. E poi in un parcheggio, ma stiamo scherzando, povero fidanzato incornato. Cioè, secondo questa signora e secondo molte persone, il fatto stesso che lei abbia fatto dei video privati in cui mette le corna al suo fidanzato facendo dei pompini in un parcheggio, questo qua sarebbe in praticamente un motivo per dire: no, ma se l'è cercata. Ma cosa si è cercato? Ha distribuito questi video a degli amici, ha dato questi video, non li ha messi nella pubblica piazza, non voleva che fossero messi a disposizione mia, a disposizione tua, Parenzo. Tu te li ricordi questo video? Io manco l'ho visto, vorrei che vado a vedere. Sei uno dei pochi che non l'ha visto. No, tu hai visto il video, hai fatto anche la moviola magari del video. L'ho visto più volte, non me ne vergogno. Non mi interessa. Non me ne vergogno, erano... Non ho visto, ti assicuro che non ho visto. No. Ma non perché sono snob o... bacchettone. Senti, un altro che si chiama Fabio Cenni. Ragazzi, dire che se l'è voluto è brutto, ma è così. Nessuno l'ha obbligato a fare quello che ha fatto e nemmeno a farsi filmare. Che è causa del suo male, cioè questa si è suicidata perché a un certo punto non ha retto lo stress, era diventata una specie di mito del web, mito non per lei naturalmente, no? Cioè le sue frasi in quel video sono state oggetto di parodie, eccetera, eccetera, e voleva cambiare identità. Ha fatto causa, alcune l'ha vinta, altre l'ha persa, la maggior parte l'ha vinta, poi è stata condannata a pagare 20.000 euro, ma insomma non è colpa sua, la colpa è di chi ha messo quei video sul web, punto e basta. Un altro, un tale Filippo III, finalmente una donna che deve vergognarsi di quello che ha fatto. Che schifo, che brutta società che stiamo diventando. Una donna che deve vergognarsi di quello che ha fatto. Ma perché uno si dovrebbe vergognare di fare dei video privati e di distribuirli tra gli amici? Di cosa si dovrebbe vergognare? Ognuno ha le sue cose, la libertà è fare quello che uno vuole nel privato. Cioè, quei video non dovevano circolare sulle piattaforme. Strano non gli sia venuta però, come dire, il sospetto, la paura, il fatto che qualche imbecille di amico suo potesse... No, ma quello sarà sicuramente qualche amico suo. A me. No, che non gli sia venuto il sospetto che appunto facendolo circolare così tanto poi non finisse incastrato. Ecco, questo magari uno, poverina, non ci sta più attento, però... Uno dovrebbe stare attento a cosa? Lei li ha fatti circolare tra gli amici? E non è che pensava che questi qua finissero sul web, ragazzi, dai, sulle piattaforme, dai. Crozza sull'ambasciatore americano, crozza anti-Trump, Ci mancava poi solo l'endorsement dell'ambasciatore americano, che oggi ha detto: se vince il no, niente più investimenti. Gli americani, voi ci dite come votare, voi. Cioè, state per votare come presidente un nazista dell'Illinois, che nei primi 100 giorni ha promesso di far saltare il mondo, e ci dite come votare a noi. Crucià, ma a me che va ascolto dagli Stati Uniti, che me frega del traffico. La Zanzara. Non scordatevi il numero del cuore, 393 71 71 701. Allora, dove andiamo? De Luca, governatore del mondo, fermi tutti, su Di Battista, senti. Quell'altro, l'emergente lì, come si chiama, il gallo cetrone, tale Di Battista, sì. No, lo dico perché è arrivato qui in costiera amalfitana con Centauro, con il casco. Ha riempito le piazze? Ha riempito le piazze, e chi se ne frega, ha riempito le piazze. Oh, Di Maio si corregge, mai detto Renzi sanguinario. Pinochet, che poi è Pinochet, in Venezuela è un lapsus. Possono sbagliare anche loro, Ha detto Renzi è come Pinochet, era una provocazione? Era sicuramente una provocazione, non ho mai detto che era un sanguinario, che fosse un sanguinario, ma io sono arrabbiato con Renzi per come ha occupato le istituzioni. Invece abbiamo visto il suo post dove parla di Pinochet in Venezuela, è un grave errore. Sì, è stato un lapsus corretto dopo 10 minuti. Ma l'ha scritto lei, Pinochet in Venezuela? Assolutamente, mi prendo tutte le responsabilità, per carità. E meno male, questo ci mancherebbe altro. Ragazzi, la cosa incredibile è che si può pensare qualsiasi cosa di Renzi, ma paragonarlo, poi non è che dice io ho sbagliato, forse il paragone con Pinochet è un'esagerazione. Renzi come Pinochet, no? Dice, non ho mica detto che è un sanguinario. Vabbè, ma ci mancherebbe pure che uno dice che è un sanguinario. Cioè, non è che ha detto no, è una cazzata. Cioè, ho detto una balla colossale. Cioè, paragonare Renzi, per cui, ripeto, non ho particolare simpatia, ma paragonare Renzi a Pinochet. Cioè, Pinochet è uno che è un dittatore. Poi lascia perdere le considerazioni che si possono fare su Pinochet. Ha fatto una classica sparata da politico, dai, ma su. Questo che dice è solo come gli altri. Ha fatto una sparata come qualsiasi altro. Vabbè, dove andiamo? Matteo, Brescia, vai. Dove andiamo? In Israele andiamo, a Tel Aviv, meraviglioso. Volevo fare un piccolo intervento riguardo il caso di Di Canio. Sì, sì, incredibile il caso di Cani, incredibile. Io sì, continuo a leggere. Perché, no, incredibile, ma incredibile perché comunque sono anni, dico anni, che lo stanno massacrando riguardo la sua fede politica. Ma massacrando non troppo, ha lavorato in tutte le grandi aziende di comunicazione in Italia, di sport, sì, ha lavorato però, a Mediaset, adesso lavora okay, Sky, non perfetto, l'hanno massacrato perfetto, manco per bene, niente. Ok, perfetto, va bene, ok. Non è però, quello il punto è l'ipocrisia assoluta. Sì, no, ma il punto è come mai dall'altra parte invece un certo Cristiano Lucarelli, sì, che ha giocato per anni a Livorno, sì, che ha sempre comunque esultato sotto la curva del Livorno. Ma non fa l'opinionista, non fa l'opinionista e conduttore, però sono due cose un po' diverse. Chiuso, ma, mica un reato, ma Di Canio comunque sempre è stato criticato anche quando era un giocatore. Guarda, non solo da non è tanto la questione dei paragoni, cioè che non si possono fare perché non c'è uno. Quello fa l'opinionista a Sky Sport, conduce anche una trasmissione, non mi ricordo, Di Canio Show, eccetera, eccetera. No, allora per la sua, diciamo, fede politica passata o presente eccetera è abbastanza conosciuta, cioè è conosciutissima soprattutto okay, dai signori di Sky. Allora è andato in televisione a maniche corte e si può andare non esibisca simboli del fascismo, solo questo. Sì, ma la sia, parola Dux sia, scritta qui dai, non esibisca simboli del fascismo. Dai ragazzi, ma di che stiamo parlando? Dai, è veramente una puttanata, dai, è una stronzata ed è un'ipocrisia assoluta. Sky che si scusa con chi se abbiamo urtato la sensibilità di qualcuno. Certo, veramente, ma l'ha fatto benissimo, sono persone educate quelle di Sky e hanno capito che il loro opinionista, che fa legittimamente l'opinionista perché ognuno può avere la fede che vuole, basta che non ostenti cose contrarie alla Costituzione. Ma non è che stiamo dicendo che sto dicendo una cosa così strana, No, stai dicendo una cosa ipocrita, perché tutti sapevano della sua fede politica e nessuno gli ha detto che non poteva. Ma nessuno gliela toglie quella. Uno dice semplicemente non esibire in pubblico. Uno può tatuare. Quello può tatuarsi. Ma esibire che cosa? Anche... Il tatuaggio ha condotto in maniche corte. Lui per me può tatuarsi anche sul pube l'effigie di Mussolini se vuole. Non ho nessun problema. Questo non è interessante. C'è qualcuno in Italia che magari tra i nostri ascoltatori di sicuro che ha... Quanti hanno tatuato il Duce magari sul pube o da qualche parte? Ma va benissimo. Parte. Uno può tatuarsi quello che gli pare. Ma non lo può esibire in televisione secondo te? Ma secondo me ma non è esibizione, ha condotto con le maniche corte una roba su Facebook, le maniche lunghe, tanto qualche soldino per comprarsi delle camicie ce lunghe, penso non lo so. Pietro da Napoli, fare. Pietro da Napoli, la colletta. Pietro, buonasera. dimmi Pietro. Volevo dire, Crociani, tu che giustamente dici che chi ha diffuso il video della ragazza sì, è l'unico colpevole di questa vicenda. La ragazza non ha alcuna responsabilità, nessuna. Chi l'ha visto, tra cui te, sì, e non io ha l'ho denunciato visto la cosa? Ma che ho denunciato a chi? Magari altre volte. Ma lo denuncio a chi? Che quante ne so volte, io? Quante volte chi? Che ma non mi ricordo, l'avrò visto poche volte, poi mi sono rotto i coglioni e non l'ho più visto. Cioè, l'hai visto con qualcuno? L'hai fatto vedere a qualcun altro? Ma non mi ricordo, ma l'ho visto. Voglio dire, perché non hai denunciato la cosa? Ma ho denunciato perché a chi l'ho denunciato? Ma partecipe. Ma sono partecipe della diffusione di questo video, certo. Ma non dire cazzate, Pietro, no, dai. Ho semplicemente visto. Scusami, Pietro, io non. Qualcosa di illegale. No, ma io non so. Scusa, sul se momento, quando è stato. No, non è la stessa cosa. Quando è stato diffuso è quel video. Cosa, quando, è stato quando è stato diffuso qualche tempo fa, qualche anno fa, il video della Tiziana Cantone, questa ragazza di Napoli che, ripeto, si è suicidata perché non ha retto la pressione, la vergogna di essere stata a lungo sputtanata da questa roba qui. Quando è stato diffuso questo video, nessuno sapeva se lei era consenziente, se era stato fatto a sua insaputa questa cosa qui. Poi non ho più seguito la vicenda. Nel momento in cui è stato diffuso il video, molte persone l'hanno visto. Parenzo non l'ha visto perché non gliene frega niente. Io, che sono una persona curiosa, ho cliccato come molti di voi. Anche tu, Pietro, l'avrei visto o no? Non conoscevo l'esistenza. L'hai visto del video, o no? Ma se no, non l'ho visto. Ma se l'avessi visto su YouPorn, magari sarebbe passato. Perché avresti che cosa? Ma guarda che la denuncia l'avrà fatta lei. Non è che c'è bisogno che la facessi io la denuncia. No, tu hai giustamente detto che è colpevole chi ha diffuso. Ma perché dovrei essere complice? Non ho capito di questa roba qua, ma di che parli? Perché sei stato nel sistema della diffusione del video. L'ho visto, non è che l'ho fatto girare, non è che l'ho messo su un'altra piattaforma io, cioè non è che non l'ho nemmeno condiviso, l'avrò segnalato a qualcuno. Hai visto il video della Cantone che fa un pompino a uno dicendogli una frase, adesso non mi ricordo che frase era, eccetera. L'avrò segnalato a qualcuno, ma non è che l'ho diffuso, ma dai, su. L'Italia va male perché ci sono troppi Parenzo! Roma-Napoli, in auto con un'amica, io, lei e il sistema digital radio. Accendiamo la radio? Hai detto radio? Te la faccio ascoltare in digital. Cioè? Sulla mia auto puoi ascoltare i programmi che ami di più con il suono perfetto, grazie alla Digital Radio. Ce l'ho anche a casa. Tu no? Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB+. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. La Zanzara. Ragazzi, io sono torinese, abito in Piemonte, ma quanto cazzo glielo invidio De Luca ai napoletani. Datecelo come presidente della Repubblica, ma subito, subito, cazzo. Viva il governatore del mondo, grande. E Parenzo, rispettalo, rispettalo. Silenzio, silenzio religioso quando parla lui, il nostro grandissimo governatore del mondo. Giuseppe, te l'ho già detto, io voglio andare a vivere in campagna, perché c'è lui, il super governatore del mondo. A Cruciani, ti potevi fare i cazzi tua sul Napoli? mo? Allora, caro Parenzo, sono sempre più convinto che sia stata veramente una follia quella che ha fatto Sky nel sospendere Paolo Di Canio. Ecco, hai ricordato la notizia giusta, sospendere, no, non cacciare. No, ha sospeso. Quindi la collaborazione. Dire, cioè, tutto in, una, no, in un buffetto. In no, un buffetto. No, no, no, no, no, no, no, sospesa la collaborazione, cioè, secondo me sospesa, non... Sospesa, congelata. Ma no, ma congelata significa vediamo, chiusa la collaborazione. Lo riprenderanno, vedrai. Ma intanto hanno fatto bene a dare questo segnale a questo signore che gli faccio la colletta, gli altri gliela regalerò io, se tu mi dai le misure, una bella camicia a maniche lunghe da mettere quando fa le sue cose in pubblico, quando è in privato con i suoi amici, con i camerati. Posso dire che è un provvedimento, questo sì, fascista? Ma un scusami, praticamente è un provvedimento allora fascista. Entrare a Sky col passo dell'oca, ad esempio. Ma no, ma che c'entra adesso? Ingresso, ma questo sì che è un provvedimento fascista. Perché non fa la marcia su Sky, ad esempio? Io lo trovo un provvedimento fascista. Fate la marcia su Sky. Sì, ragazzi, però non è, ma che cazzo c'entra, dai, su. Organizza la marcia su Sky dopo la marcia su Roma con Di Canio. Organizza la marcia ma su Sky. Ma che c'entra, dai. Senti Barbara Alberti, la mitologica Barbara Alberti sulla vicenda di Tiziana Cattore. Come sapete, quella ragazza che si è suicidata per motivi che non sappiamo, perché il suicidio ha sempre qualcosa di oscuro. Ha sempre qualcosa di oscuro. Sicuramente perché questa storia era ritornata. Della depressione. Sì, sì, probabilmente non lo sappiamo. No, cioè, non probabilmente lo sappiamo. Non è che ha lasciato un biglietto. Non è che ha lasciato un biglietto. Sì, la madre ha parlato, eccetera. Però comunque. Per la vergogna, la storia poteva ritornare a galla dopo la sentenza che l'aveva condannata a risarcire 20.000 euro, ma nello stesso tempo, insomma, sai com'è la giustizia italiana poi, no? Manuel da Cesena, vai Manuel, anzi no, Barbara Alberti prima, Barbara. Perché oggi è morta ieri è morta una ragazza? Perché si è uccisa in questa maniera tremenda? Semplicemente se l'avesse fatto un uomo sarebbe diventato un eroe del web. Sarebbe diventato uno figo, ecco, scusate, sì, ecco. È così, è così. Però è così. Ma questo non è probabile che sia così. È chiaro che una donna che si esibisce con degli amici, perché poi sì, esatto, esatto, con degli amici passa per una puttana, mentre un uomo che magari si mette lì e si esibisce, ragione, questo è vero, e questo si esibisce in un atto sessuale è considerato un figo. Questo sì. Purtroppo questo è vero. È questo così. D'accordo. Questa ragazza, che cosa c'era di orribile? Ha fatto una cosa che milioni di persone in questo momento stanno facendo nel mondo. Ha fatto un atto sessuale tra i più normali del mondo. Voglio dire, una cosa veramente corrente che fa parte del sesso. Allora, noi siamo il paese che ha quello che l'ha uccisa, siamo noi. Siamo noi, ragazzi, non diciamo siamo noi. Che vuol dire siamo noi? Questa ragazza, a un certo punto, questa Tiziana Cantone, è scomparsa. cioè nessuno riusciva a raggiungerla. Beh, paradossalmente, fammi dire questo, che tutti quelli che hanno cliccato quel video hanno contribuito a ucciderla. Ma non dire che anch'io. Allora, ha ragione l'ascoltatore di prima, ma non dire stronzate. Beh, ma sì, da un certo punto di vista no, sì, ma non è così, dai, su. Tu non potevi saperlo che si sarebbe tolta la vita, probabilmente. Ma no, ma non si sapeva nulla se lei no, aveva... No, appunto, dico indirettamente, tu non potevi sapere nulla, tu come tutti gli altri... Ma quando una cosa viene, come dire, è fruibile da chiunque, quando tu puoi andare su internet a vedere un video e quel video non viene tolto dalle persone... Chiedo, scusa, io posso evitare, ad esempio, di guardare i siti dei porno coinvolgono bambini. Ma quello è diverso, se tu lo vedi, se tu vedi un video del genere perché sei curioso, sei complice, tant'è che ci sono le leggi che ti puniscono. Ma non c'entra nulla, ma sono due cose diverse. Tu puoi rifiutarti di guardare, poi se ti beccano, David, sono due cose diverse. Quella è un reato, stava no? facendo un no, pompino. Non ti mettono, però stava facendo. Puoi andare a vedere i siti con i bambini. Stava facendo un pompino a uno, come dice l'Alberti. Fa una cosa che tutti fanno quotidianamente. No, ma infatti, quell'Alberti giustamente dice: ma chi è che l'ha ucciso? Tutti noi, cioè ma tutti no, quelli che sono andati a vederle hanno contribuito. Sono a quelli che roba. Hanno mandato quel video sul web. Basta, punto e basta. Ancora l'Alberti, vai. Beh, noi abbiamo il record in Italia delle donne ammazzate. Ecco un altro modo per ammazzare una Questo donna. È un femminicidio. Certamente, ma certamente. È un collettivo. Femminicidio. Collettivo con complicità di tutti. No. Ma dai, su, però in questo caso Barbara no. Ma, ragione, un'analisi no, perfetta, ma che femminicidio? Ma che cazzo c'entra? Sono quattro imbecilli criminali che per primi hanno diffuso sul web quello che doveva rimanere tra privati. Questo è il punto fondamentale. A meno che, questo ancora non lo sappiamo, ma credo di no, ma poi nei prossimi giorni si vedrà, lei non abbia contribuito all'inizio di questa storia, pure lei, la povera Tiziana, quella che non si è suicidata, abbia contribuito alla diffusione urbi e torbi di questo video pompinesco, diciamo, no? di questo video hard. Vabbè, Manuel da Cesena, vai. Pronto, comunque ragazzi, Rustani. Non bisogna nascondersi dietro le cose. È chiaro che chi più, chi meno, chiunque abbia visto quel video lo ha visto avidamente, lo ha consultato avidamente, appunto, mosso dalla curiosità, avida di vedere una e persona ha contribuito a rendere pubblico il suo ludibrio. Ma mosso da che cosa? Dal fatto che è un maiale, curioso, morboso e fa schifo. Vabbè, ma che vuol dire? Non è che chiunque ha visto quel video è un morboso, schifoso, maiale. Beh, è un morboso, è uno che ma che... ci sono delle curiosità, sì. Delle persone, diciamo, comuni che fanno un video del genere e fino a quando questo video, almeno all'inizio, era online, poteva sembrare anche, come dire, fatto apposta per finire lì, è evidente che scatta un elemento di curiosità, un elemento anche se vuoi di morbosità, di... Esatto. Vabbè, ma fa parte della vita, non è mica un delitto essere morbosi, Manuel, vai! Sì, ciao Cruzani, è ovvio che la colpa chi ha diffuso il video era un video privato e la colpa penale è di chi ha diffuso il video, però come per il caso del Rolex da Napoli, se non puoi farti rapinare il Rolex a Napoli, non giri col Rolex a Napoli. Questa è una puttanata, è pieno in Italia di video privati, di persone che si filmano, che si fanno i video, che si rimandano, hot, i video di sesso, ma non mi risulta che finiscano in rete a disposizione di tutti. Alle tue amici su WhatsApp 99/9, insomma, devi mettere in conto che può anche finire in rete. Se oltretutto lo fai per vendetta sul tuo ex fidanzato, magari gli arriva, questo lo mette in rete. Ma no, ma è una cosa diversa. Se ti arriva, scusa, se io tradisco qualcuno e voglio far sapere a questa persona che lo tradisco, ognuno può avere tutte le perversioni del mondo, no? Faccio un video e io lo mando, ma questo resta un video tra privati. Non è mica. Però lo condivido con tutta la congregazione. Cioè, secondo te, vuoi dire, Manuel, fammi capire, secondo te lei è in parte responsabile? No, è in parte ingenua. Non ma ingenua, d'accordo, ingenua, che vuol dire? Se non dai. Vuoi che tirino i tuoi video, che fai dei pompini in giro, non lo fai. Uno, non li fai. Uno, e due, non li perché uno non può fare i video facendo i pompini, non ho capito. Se no. Li tieni per te, ma chi te l'ha detto? WhatsApp. Ma WhatsApp è una... Se non metti in rischio... Ma è una roba privata WhatsApp. Ma è una roba privata WhatsApp. Se lo giri a otto amici, prima o poi... E allora? Ma chi l'ha detto? Ma quando mai? Dammi altri esempi. Non è vero, non è così. Marco da Verona, vai. Marco. Ciao Cruciani. Dimmi. Io volevo fare una considerazione sempre sul fatto della ragazza. Facciamo un esempio: ci troviamo io e te domani mattina e io ti dico, guarda Cruciani, sono un po' triste, dammi un bello schiaffone. No? Tu mi dai uno schiaffone e io ci resto secco. Ma di chi è la responsabilità? Mia che ti ho chiesto lo schiaffone o tu che me l'hai dato? Allora, questo analisi. No, non ho capito, scusa, spiegami. Cioè, mi pare un. una metafora poco riuscita. Cosa vuol dire? No, nel senso che, allora ti spiego. È chiaro che la responsabilità è chi ti ha dato lo schiaffo, è ovvio, non chi ha chiesto. Ma allora se io vado dall'amministratore, no, ma che vuol dire? Però se io vado dall'amministratore web e gli dico pubblicami questo video, allora io che sono l'amministratore web posso anche rifiutarmi di pubblicarlo, perché trovo, no, ma ragazzi, trovo veramente, ma che cosa vuoi dire? Okay. Spiegami, Marco, lasciamo perdere adesso questa metafora poco riuscita. Sono d'accordo con te e che c'è un discorso di responsabilità. Cioè, chi, no, ma qualcuno dice un video, scusami Marco, un video, qui la questione può è molto evitare di pubblicarlo. Qui la questione è molto schifo. La questione è molto semplice, sì, ma questo siamo d'accordo tutti, però ognuno ha la sua, il suo target, eccetera eccetera. Ci sono siti che pubblicano video spinti, siccome per fortuna esiste la libertà anche in questo caso, esiste YouPorn, esistono pure un altro tipo di siti. Allora, la questione è molto semplice. C'è chi dice che lei se l'è cercata, che questa ragazza facendo quel video e diffondendo ai suoi amici se l'è cercata, e dunque non si può troppo, no, vabbè, alla fine si è suicidata, ma in parte è colpa sua. E c'è invece, come me, chi dice che la responsabilità è solo e unicamente di chi ha diffuso quel video sul web. Ma questo non c'è dubbio. E che uno ha tutto il diritto, ha tutto il diritto di fare film porno, scene hot con il proprio ragazzo, con altre persone, e di diffonderle tra amici. Non per questo devono finire a disposizione di tutti. Non c'è dubbio. Tommaso, Padova, vai. Non c'è Giuseppe, io sono spesso d'accordo con te, però su questo fatto non cioè? Stigmatizzerei troppo. Chi? La gravità della situazione. Che vuol dire? Cioè, non ho capito. Cioè, sono, secondo me il fatto è grave e io in qualche modo... Ma che vuol dire grave? Chi ha detto che non è grave? Non ho capito. Una si è ammazzata, certo che è grave. Sì, però è come se, come la stai facendo passare, come se fosse un po' colpa sua. Io? Ho detto il contrario, ma non hai capito un cazzo, cioè non hai capito proprio un cazzo. Ho detto che non è affatto colpa sua, non hai capito una mazza. Ma secondo me questo è passato. Ma è passato che cosa? Quello che dici tu forse? Purtroppo non si lava le orecchie la mattina. Perché il problema è che non hai capito una mazza, perché dall'inizio che sto dicendo che questa povera ragazza non ha alcuna responsabilità, zero responsabilità, e non si è cercata nulla, ha semplicemente fatto quello che voleva fare in quel momento, e dopo è stata fottuta, questo è il punto, è stata fottuta. Cruciani e Parenzo, siete il Franco e Ciccio della radio italiana. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Cioè, sto ascoltando l'idiota di Cruciani che vorrebbe barattare un anno a scuola della sua piccina in cambio della vittoria di Trump. Fai sempre il frocio coi culo di quegli altri. Fai una cosa, coglione. Levati un rene e dallo in beneficenza se vince qui, coglione, coi ciuffo. Vediamo se tu sei così contento. Se vince Trump, Cruciani prende un rene e lo dà in beneficenza. Vediamo se c'hai le palle, scemo! Allora ragazzi, qualche voce dal piccolo paese, credo in provincia di Napoli, dove era nata e dove ha vissuto a lungo Tiziana Cantone, la ragazza che si è suicidata per quel video hard, per lo sputtanamento in seguito a questo video hard. Secondo lei è stata ammazzata, tra virgolette? Dai social, sì. Sì. Essendo che ha 31 anni, ha pigliato le proprie responsabilità mettendo una cosa del genere in rete. E si sanno i rischi che possono avere queste ragazze, questi ragazzi che fanno queste cose qua. Lei è sicuro che il video l'ha messo lei? Sì. Mi dispiace per la vicenda che è andata a finire male, ma ognuno fa di internet quello che vuole. Allora Andrea, provincia di Vicenza, vai Andrea, vai. Non c'è? Francesco, Milano, vai. No, anzi no, prima c'è Gianni Ascoli, vai. Gianni. Ciao, sono Gianni. Ciao, dimmi, Gianni. Dimmi, Gianni, ciao. Dimmi. Ah no, guarda, una cosa semplice, per me le cose per non farle sapere non bisogna farle, e punto secondo, quando uno fa una cazzata ogni giorno è buono per recuperare. E dunque? Non ho capito, allora, dunque, questa ragazza sarebbe responsabile di che cosa, quella che è morta? Non ho capito. No, questa ragazza poteva semplicemente mettere da parte la cazzata che aveva fatto e recuperare giorno per giorno. Ma che vuol dire mettere da parte la cazzata che aveva fatto? Vuol dire che ognuno di noi fa delle cazzate ogni giorno, e allora? Ogni giorno è buono per poter recuperare quello che ha infatti fatto. Voleva recuperare, tanto voleva recuperare che voleva cambiare di entità, voleva cambiare città, eccetera. Poteva farlo se non veniva presa dall'esasperazione. Non ho capito, ma che colpa ha questa ragazza qua? Non riesco a capire qual è la colpa. Cioè, che è quella di aver fatto un video facendo un pompino a qualcuno? Qual è il punto? Questa ragazza non è che gli si deve dare una colpa. È quello che stai facendo. Questa ragazza, gli sto dicendo, per le ragazze vive, che ogni giorno è buono per recuperare le cazzate. Cioè, secondo te, se uno fa un video privato, volendolo lasciare nel privato a qualcuno facendogli un pompino, comunque commette già un errore. No, lo verranno a sapere, è impossibile tenere. Ma lo verranno a sapere chi? Ma non è vero, questa cosa. Non dire cazzate. Ma tu. No, perché tanto più è pubblicinosa la cosa, tanto più si verrà a sapere. Ma lo vengono a sapere chi? Gli amici, mica tutti. Lei ha voluto legittimamente farlo sapere a chi? A quelli a cui l'ha inviato, questo è evidente. Pronto? Sì, dimmi Gianni, Gianni. Chiusa parentesi, ho detto quello che dovevo dire. Voglio dire a quello che ti ha detto che tu fai foce col culo degli altri, che c'ha ragione. Sì. Venditi un rene se vuoi festeggiare la vittoria di Trump. Non fare lo svelto sempre col culo degli altri. Sono cazzi miei. Era chiaramente un paradosso, per dire, io in cambio della vittoria, ho detto un paradosso, in cambio della vittoria di Trump, baratterei la vittoria di Trump. Baratta le vittorie di Trump con i festeggiamenti in tuo possesso. Grazie. Io faccio quello che mi pare, baratto con quello che voglio. Certo, non me lo devi dire tu con cosa devo barattare. Oh, Iside! Mitica, come sta Iside? Sempre dal Maxim di Chiasso, caro Parenzo. Che? Il top del Maxim di Chiasso, l'amica Iside. Ancora la signora che dà. Che cosa dà? Che vende il suo corpo. Beh, normale, per mestiere. Allora, innanzitutto ti faccio i complimenti per le reminiscenze di giurisprudenza, visto che parliamo di comodato d'uso. Tra l'altro non a titolo gratuito e quindi non compravendita, ma vabbè, vedo che comunque questo è Parenzo, un comodato d'uso, esatto, sì, tecnicamente è così. Ma cosa hai adesso contro Iside, che fa una professione che esiste da quando esiste il mondo praticamente, è orgogliosa di farlo? No, ottimo, questo va benissimo. Beh, allora qual è il problema? Non ho capito. No, questo è magnifico, se lei è felice e orgogliosa siamo tutti contenti e felici per lei. Cara Iside, qual è? Guarda, mi riferivo a Parenzo, spara zero anche su di me, guarda, becchi proprio la giornata giusta, dopo quello che è successo alla ragazza è proprio la giornata giusta, anche perché oltretutto io sono una che ci ha messo la faccia e provengo dal sud Italia, anzi io provengo ancora da una regione ancora più a sud rispetto alla sua, dalla Sicilia. Ma dimmi, come mai ci hai chiamato? No, se la sua è una libera scelta, come abbiamo detto più volte, è benissimo, meraviglioso, io non ho nulla da eccepire, se è una libera scelta, basta. No, non ti tirare indietro, ti spiego perché c'entra, perché se tu ma non mi tirare per nulla, io ce l'ho con quelle che sono, ce l'ho. Vorrei che i miserabili non andassero con quelle sfruttate. Ma vuoi fare perdere il lavoro a Iside? Vuoi fare perdere il lavoro a Iside? Vuoi fare perdere ma se lei è contenta così, io non entro nelle vite degli altri. Ognuno può guadagnarsi da vivere come meglio crede, in termini, basta che non rubi. La signora non ruba, è in un posto regolare. No, la verità è fattura, la verità è un'altra. La verità è che quando ci scappa la tragedia, l'italiano da sempre pezzo di merda fa 3 passi indietro in tutto. E io non devo fare nessun bacetto rispetto a niente, ho detto già che secondo me quella vicenda è mostruosa e i criminali sono quelli che l'hanno pubblicato, mica la ragazza che ha fatto quel video. No, è questo l'errore, i criminali non sono coloro che l'hanno pubblicato, loro hanno sbagliato, ti beh, spiego. Sì, naturalmente sì. Beh, lei non voleva che venisse pubblicato, immagino che lei non volesse la pubblicazione del video, perché l'ha voluto mandare legittimamente ad alcuni amici per condividere questa cosa, e io questo non entro nel merito, va benissimo, è una scelta sua. Allora, la cosa più umana che un essere umano possa fare è risparmiare vergogna a qualcuno. Quindi i suoi carnefici non sono coloro che l'hanno pubblicato, che sono stati semplicemente dei coglioni. Sì. I loro carnefici sono stati tutti gli italiani che si sono smanettati davanti a quel video, ma che poi hanno puntato il dito e hanno sparato a zero. Perché è facile fare qualcosa all'interno della propria camera, nessuno sa nulla, e dopo sparare a zero sui social. È facilissimo. Vabbè, adesso, questo è vero, su questo non tutti quelli... Iside, scusami. E infatti anch'io ho detto che secondo non me tutti i colpevoli quelli, sono non tutti quelli che l'hanno cliccato e hanno continuato a vederlo. Non tutti quelli che si sono smanettati hanno fatto poi i moralisti, che hanno fatto, cioè, non hanno fatto i moralisti, eccetera. Vabbè, tu, hai, tu ci hai chiamato per, ci hai chiamato perché sei colpita da questa vicenda della Cantone, come immagino, no? Parecchio, parecchio, soprattutto quando ho sentito circa pochi minuti fa dei compaesani che all'incirca hanno dichiarato qualcosa più o meno sintetizzato come se l'è cercata. Vivissimi complimenti per la solidarietà campana. Vabbè, non ma lasciamo perdere la solidarietà, cioè una puttanata quella che se l'è cercata. Cioè, lei ha fatto una cosa in piena libertà. Cioè, ha fatto sì, ma sono dichiarazioni che hanno fatto. Sì, sì, sì, per carità. Come va là, Chiasso? Come vuoi che vada, abbastanza bene, ti ringrazio. Il Maxim, caro Parenze. Ciao, Isi, da presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Sergio Monza, vai Sergio. Ciao ragazzi. Dimmi, dimmi. Devo intervenire a favore del grande Paolo Di Canio. Dimmi. E come al solito non condivido l'idea di Parenzo. Cioè trovo veramente una situazione paradossale, assurda, di razzismo al contrario. Sì. Questa cosa per cui è stato praticamente prelicenziato. Oltretutto, ditemi voi, chi si accorta in trasmissione? Secondo me se non fosse stato montato il caso. Vabbè, quello sai... Diciamo giornalisticamente, ma cioè, quello che c'entra, chi se n'è accorto? Se uno va poi in una trasmissione, peraltro credo che fosse un video di presentazione, con le maniche corte, in cui si vede la scritta Dux. Non è che è stato montato il caso magari esiste anche, ma quelli di Sky avrebbero dovuto avere le palle per dire una cosa molto semplice. Noi sappiamo il passato politico di Di Canio, cosa c'entra quello? Sappiamo anche che ha un tatuaggio, perché lo ha mostrato più volte. Sappiamo, se non sanno queste cose sono colpevoli di non saperle. Ma che discorso è? Qui non c'entra nulla la fede politica di questo signor Di Canio, di cui mi interessa molto poco, cioè la conosco quella, la fede politica. Allora, quello è lì come opinionista sportivo, non per parlare della Repubblica Sociale Infatti italiana. Non ha parlato della Repubblica Sociale italiana. Uno può avere qualunque fede, mica io dico che non deve lavorare in Canio, ma mica sono stupido. Benissimo, fa l'opinionista Sky. Non deve mostrare i suoi tatuaggi. Però i signori di Sky, giustamente, a un certo punto si sono inorriditi e mi hanno detto: ma questo qua sul corpo può fare quel che vuole, ma una camicia se la può anche comprare, cioè non c'è bisogno di ostentare una cosa che... Ma non ha ostentato una cosa, si è messo... Tutto si è qui. No. Ma mi pare una cosa talmente... No, scusa, Davide, scusami un attimo. Nei paesi anglosassoni è normale che Sky... sia così tanto Sky, che voglio dire, sta a regole di mercato di paesi Marco, come gli Stati Uniti e l'Inghilterra. No, però queste cose sono sanzionate parecchio. Però scusami un attimo, cioè, una cosa molto semplice, diciamo la verità, che se non Di Canio... Che i cronisti di Sky America vadano in giro con il cappuccio del Ku Klux Klan, non mi pare. Ma non è la stessa cosa, dai, c'è un tatuaggio che lui ha sempre dichiarato di avere, che ha mostrato più volte, non è che lo ha esibito, è andato in maniche corte. Se poi c'ha il tatuaggio, che fa? Si deve scartavedrare il tatuaggio, che cosa deve fare? Ha un tatuaggio, appunto. Ha messo una camicia a maniche lunghe e nessuno avrebbe toccato Di Canio. No, ma su questo non c'è dubbio che nessuno avrebbe toccato Di Canio. C'è un altro elemento però, se avesse... Ha fatto una sciatteria, ha fatto una bravata... Ah no, bravata perché è consapevole. Ma che ne sai che l'ha fatta apposta? No, quasi orgoglioso di questa stupidaggine che c'ha scritta, di assassino che ha tatuato sul... Vabbè, ognuno c'ha tatuato quello che vuole. Se avesse tatuato la faccia e il martello, non sarebbe successo nulla. Se si fosse presentato in televisione con la faccia e il martello, ma non sarebbe successo nulla. Se si fosse presentato con la faccia... Ma non è fuori legge, è dei simboli dei partiti, mentre mi pare che... È criminale quanto la scritta Dux. La storia del comunismo è criminale quanto è più la scritta Dux, chiaro? Ma che cosa vuol dire? Ma no, vuol dire. La faccia e il martello, Sergio, dimmi. Il simbolo di Gottuso del Partito Comunista, mi pare che non... La faccia e il martello, il comunismo ha fatto crimini forse più del... Certo, più del nazifascismo. E allora basta, su, qual era il simbolo del... Non è un reato fare la... Ragazzi, c'è una grande ipocrisia su questo, dai Sergio, che mi volevi dire? No, volevo semplicemente... È assurdo, si commenta da solo, il commento di Parenzo, si commenta da solo, perché è un reato scrivere Dux sul braccio. Ma lui ha mai visto... Ma nessuno ha detto che è un reato, ma lei capisce? E allora, ho detto che Sky lo ha allontanato giustamente, pur sapendo... la sua fede, lo ha assunto, lo ha pagato, scusami, anche sapendo cosa pensava. Caro Parenzo, tu probabilmente non hai mai seguito un 5 minuti di trasmissione, di qualsiasi trasmissione abbia fatto Di Canio. Io non sono assolutamente la sua fede politica, ma trovo che sia innanzitutto uno dei migliori commentatori di calcio. Assolutamente. Il calcio britannico non ne parliamo. Ma ho mai non detto mai che non deve lavorare Di Canio, non mi pare. No, però stai dicendo che hanno fatto bene, stai avvalando. Ho detto che hanno fatto bene a sospenderlo, visto che hai certo, ma una sospensione non licenza. Ma cosa c'entra? Ma di cosa stiamo parlando? Ma stiamo parlando di per me può tornare in onda, basta che si metta una camicia a maniche lunghe e non rompa le balle, basta. Ciao Sergio, ciao. Io con la zanzara scivolo. La zanzara. Cruciani, ascolta un coglione, abbandonate la nave, l'Italia è fallita, abbandonate la nave. Grande ritorno qui alla Zanzara, Oliviero Toscani. Oliviero, come stai? Bella, siete ancora lì ragazzi, non abbandoni la nave. Digli che io per fortuna, caro Oliviero, sono qui a Tel Aviv. Ragazzi, non vi sovrapponete però, sai, siamo all'ABC, su, dai. Che stavi dicendo? I topi abbandonano la nave, digli a quel signore. Ma noi non abbandoniamo nulla, noi non abbandoniamo niente, siamo qui sul pezzo. Sei solamente abbandonato da più, ma non abbandono. Sì, abbandonato, no, diciamo... Sono abbandonato, il mio cervello è abbandonato, un altro discorso. Ti ha abbandonato il cervello? Beh, insomma, è un mio cervello, combatto col mio cervello. Senti Oliviero, ma io non ho capito, sì, questa ragazza di Napoli se l'è un po' cercata facendo quel video? Ma sai, ti ho detto tante volte che tutti i cretini sono in ordine alfabetico su Facebook, ormai lo sappiamo, serve a quello. A me è chiaro che tu devi sapere quello che fai, ormai viviamo di comunicazione, non puoi fare qualcosa e poi dopo ti rendi conto e essere così presa in questa cosa e dargli anche così tanta importanza. Beh, tanta importanza, questa qua hanno fatto parodie. Per ammazzarti. Vabbè, parodie, caro mio, le parodie vanno bene agli altri, ma te no, devi accettare, devi saper accettare, se fai le cose devi anche saper accettare le critiche. Cioè tu dici, se uno fa una cosa, se tu decidi di fare un video e di mandarle ai tuoi amici, poi finisce sul web e poi non puoi deprimere, non ti puoi deprimere. No, non puoi, beh, devi sapere che può succedere, se ti deprimi sei un po' offeso, insomma, cosa fare? In che senso sei un po' offeso, non ho capito. Sì, non puoi deprimerti, c'è libertà d'espressione, bene, tu ti esprimi, fai vedere che fai certe cose, no? Ti vuoi esprimere così, ed esprimiti, bene, però sai che fai una cosa pubblica, soprattutto se la dai, anche se la dai a un amico, fai una cosa pubblica. Ma non è così, se io mando dai una mail, una mia mail a Cruciani e Cruciani la pubblica, adesso lascia stare l'interesse nullo delle mie mail, ma se gliela mando, lui non è che può disporre delle cose che gli mando io, no, perché private. Perché le tue mail sono di interesse nullo. Senza il mio consenso, se tu mandi un filmato a Cruciani mentre tu ti stai scopando qualcuno di divertente, come aver paura che Cruciani la fa vedere a tutti? E fa bene, perché non dovremmo vedere, in fondo l'hai fatto. Dici in fondo quello il pompino l'ha fatto, dunque l'ha mandato in giro, e l'ha mandato in giro agli amici, un amico. Non ha importanza, l'ha mandato in giro, vuol dire che andava bene che qualcun altro vedesse in più di quello. Ma, secondo me non è così, però. Come non è così? Scusami, ma se io mica ho interesse che venga pubblicato tutto quello che ti mando a un amico in modo riservato, ma tu hai magari ragione, hai ragione, ma non è così tecnicamente più, è finita. Cioè, tu dici che una fa un video, lo distico, fa un pompino a uno di aver fatto un video, tu sei pubblico, anche se non lo mandi in giro, rimarrà da qualche parte. Ma no, ma non è così, ragazzi, non è così. Se lo mandi via WhatsApp a qualcuno, non è mica detto che finisca nelle mani tue. Lui ha ragione sul fatto che c'è poca consapevolezza. Oliviero ha ragione su questo, cioè che c'è poca consapevolezza del fatto che ormai... Ho capito, si è suicidata questa. Sì, ma lo so, ma questa qua, scusa, non voglio insultarla, ma questa qua è proprio... È chiaro, quando uno muore poi ha sempre ragione. Vabbè, però tu dici un po' fessa, hai detto, un po' fessa. È logico, un po' fessa chiotta, scusa. Allora... gli dava veramente una grande importanza al suo video. Beh, non insomma, se voleva trasferirsi addirittura, voleva cambiare identità, evidentemente è stata, la riconoscevano per strada. E non... allora fa una roba che è così importante da uccidersi poi e lo fa in modo così superficiale. Cioè, tu dici allora, alla fine, se hai fatto un video in cui che il massimo, sei pubblica. Dell'esibizionismo, dell'esibizionismo, cioè fai un pompino a una persona per sputtanare il tuo fidanzato, per dirgli che è un cornuto, alla fine te tieni tutte le cose che ti sono arrivate addosso dopo. No, se fai un video, allora dovete capire, ragazzi, che viviamo di immagini. Tutto ciò che sappiamo, il 98%. Ho capito, Oliviero, però se uno fa un video e lo distribuisce tra gli amici, non è che si aspetta che lo veda anche Oliviero Toscani poi, o lo veda Giuseppe Cruciani. Ma invece, come vedi, sì. Come vedi, sì, in questo caso, non sempre. Cioè, non è che succede sempre. Non sempre. Beh, è pieno di... Scusa, hai mai fatto un video in cui ti fai una sega? No. Dimmi la verità, un video in cui mostri il tuo uccello, l'hai fatto o no? Un video? Una foto in cui c'è il tuo uccello, c'è in giro o no una foto con l'uccello di Toscani? Abbiamo fatto una volta uno spaghetti western a New York, è una cosa che era molto divertente, con le modelle, abbiamo fatto gli spaghetti veramente domenica pomeriggio a New York, adesso non dico che modelle, che tra l'altro sono anche conosciute, e facevamo gli spaghetti, eravamo tutti nudi. Molto divertente. No, ma ho capito, tu la foto dell'uccello di Toscani, con la faccia di Toscani, c'è una foto in giro, un video non c'è. Benissimo, se tu fai una foto col tuo uccello e la mandi e la mando a te e la mandi a me e io poi la mando sul web, tu mi fai un culo così. No, faccio ma no, allora lo faccio. Ma è sul web, finito. Ma non è sul web se la mandi a me. Ma se la mandi a me non è sul web. Scusa, Oliviero. Ma se tu la mandi a me dicendo guarda che uccello che c'ho. Guarda che uccello che c'ho. Ma scusa, ma Cruciani, lo mando a te, va bene. Lei l'ha mandato a degli altri che non sei tu. No, non sono io, sono degli amici. Allora, ho capito. Amici del cazzo, gli amici. Fidati degli amici che... Sì, ma tu stai dicendo che è colpa anche sua. Ma è logico che è colpa sua. Solamente sua. Solamente sua perché ha fatto un video facendo un pompino. Cioè, siccome una fa un video col pompino, è colpa sua. Ma lo manda in giro. Non è in giro, l'ha mandato agli amici. Non ha sbagliato a fare il pompino, va benissimo. Ma quello, figuriamoci. Ha fatto un video di fare un pompino. E il video cosa lo fai per fare? Per farlo Ma scusami. Sì, certo. Perché se non fossimo nell'era digitale, se tu vieni a casa mia e io ti regalo una foto fatta con la Polaroid o te la do, no? E tu te la metti a casa e poi la pubblichi, commetti una cosa sbagliata, cioè commetti un reato. Sì, hai ragione, però quando è pubblicata... Perché con la foto non digitale, diciamo, ora hai ragione tu, ma parlate con gli avvocati, parla praticamente... No, ma nella pratica è successo quello che è successo, ma non è che tutti i video privati vanno a finire sui siti a disposizione di tutti, dai ragazzi. Ma analizziamo quello che è successo. È chiaro che ci sono tanti video molto intimi che non vanno a finire. E qui invece è andato a finire, vuol dire che lei aveva degli amici del caso. Vabbè, quello sicuro, non c'è dubbio. Fermo lì. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. I'm a real wild one. Wild one. Crozza su Trump in modalità campagna elettorale praticamente, se votate Trump, mamma mia quanto voglio le elezioni di Trump. Davide, tu non hai idea di quanto io sogno, perché ti conosco, quanto sogno le elezioni di Trump, quanto sogno la vittoria di Trump. Sai che tutte le cazzate che dice praticamente gli elettori pare che se ne fottano totalmente? Cioè dice una quantità di cazzate Trump, non solo cazzate, ma dice una quantità di cazzate inenarrabili e pare che gli elettori se ne sbattano i coglioni. Cioè, beh sì, questo è probabile. Ma è incredibile, è pazzesca questa cosa, è emozionante. Crozza su Trump. Se votate Trump non vi vendiamo più la mozzarella di bufala. Fanculo, vi fate la pizza col parmesan, va bene? Ma guarda un po' se ci devono dire come votare. Oliviero, voglio Trump presidente, voglio Trump presidente. Hai ragione. Anche tu tifi Trump, non mi dire che anche tu tifi Trump. Devo dire che la Hillary mi è veramente antipatica. Ah, ti è antipatica Hillary, vedi che Parenzo... con Trump va così bastri. Sì. È un po' come con Bush, no? È stato votato Bush, dopo gli americani hanno capito che hanno votato Bush. Beh, insomma, per due volte l'hanno votato Bush, non è che hanno capito. Sì, proprio due volte hanno capito e si è stato proprio il contrario. No, ma su questo può avere ragione Toscari, col gusto del paradosso, cioè è come dire, è l'espressione più bassa della contemporaneità. Basta, che vedrai cosa succede, lì bisognerà poi fare delle scelte. Senti, ma uno dice vota Trump e ascolta la Zanzara, è uguale. Ma non dire cazzate, vota Trump e ascolta Cruciani, dai. Ma dai, sì. Ma io sono io sogno solo questo. Mi piacerebbe avere la capigliatura di Trump, dai. Guarda, tantissimo, tantissimo mi piacerebbe. Senti, ma tu non trovi vergognoso il fatto, adesso non so se sei al corrente della vicenda, che Sky abbia sospeso la collaborazione con Paolo Di Canio, ex calciatore, perché è andato in video con praticamente una camicia e ha detto ragazzi c'ho scritto qua Dux, insomma ha fatto vedere ovviamente perché si vedono le braccia scoperte il tatuaggio Dux qui, cioè che non lo sapevano prima delle sue simpatie, dai su. No, ma bisogna essere veramente un coglione anche qui quando... Ma chi è un coglione di Canio? Sì, totale, io, lui fa quello che vuole, ma io dico quello che voglio. Vabbè, quello che c'è, è un coglione perché si è fatto tatuare Dux sul braccio, certo, non ho capito. No, perché lo fa vedere, lo mostra come fa gli altri. Tu ci ha tatuato Dux al cervello, va bene, l'abbiamo capito. Però questa qui... Cioè tu dici non puoi andare in video con le maniche corte perché è chiaro che poi si vede la scritta Dux. Esatto, e poi si discute di quello, quindi devi avere anche un buon senso. Come la ragazza lì che si fa il pomè e poi si succede, ma non è buon senso, scusa. Senti, è andato fuori di testa. Senti una cosa, Sgarbi ha detto da noi recentemente che non ha mai usato un preservativo in vita sua, mai toccato un preservativo, si è scopato il mondo praticamente, migliaia di donne, non ha mai usato il preservativo perché tanto l'AIDS e gli eterosessuali praticamente non lo prendono. Sì, così ha detto, l'AIDS e gli eterosessuali praticamente non lo prendono e niente, è che è una prerogativa dei gay praticamente l'AIDS, lo diceva anche il presidente, poi come si chiama quell'altro, mica si è preso l'AIDS, era una rega però. Cioè, ma che hai da dire su queste cose, Sgarbiani? Ma Sgarbi poi dice anche qua, è come andare in giro tutto Dux, dice le cazzate, che libertà di espressione, non a caso la Zanzara piace, perché c'è libertà di espressione, anche la più misera, la più del cazzo piace. Sì, ma allora, questa cosa che lui non ha mai usato il preservativo, scusami un attimo, ma può essere vero secondo te una cosa del genere? Cioè ha avuto un culo pazzesco non essersi preso niente in tante... Scusami, in diretta, che sono qui in Israele, guardando la televisione americana, Fox News, che a te piace molto perché è reazionaria. No, a me non me ne frega un cazzo. Cui stanno mostrando quel coglione di Trump, sta mostrando le sue analisi, i suoi risultati, le sue visite mediche. Vabbè, ma tu ci credi a questa cosa di Sgarbi che non ha mai usato il preservativo o no? Ma uno così dovrebbe mettersi in testa. Perché dici? Un testa di cazzo dire una roba così, dai, ma non usi il preservativo... Sono cazzi tuoi, dici? Sei un po' pirla, insomma, dai. Ma sai, Sgarbi dice le cose divertenti. È divertente dire non ho mai messo il preservativo, vuol dire non ho mai bevuto un cappuccino, dai. Alla fine non è così importante se Sgarbi mette il preservativo. Beh, no, c'è un messaggio che uno dà, no? A parte il fatto, non si sa neanche se lui scoppia o no, perché lui dice così, ma magari gli basta infilare un dito, non so. Cioè tu dici è sufficiente per lui il dito? Cioè, dice, non no, si... per tanta gente non usa il preservativo perché... coitus interruptus. Tu dici, hai sempre avuto questo sospetto che lui in realtà mi dice... No, io sto parlando di lui, lo dimentica. Hai detto, non sa nemmeno se scopa, parlando, non si sa nemmeno se scopa, adesso, hai detto. Adesso lo incontro a una cena qua a Milano, parleremo di figa tutta la sera, non hai paura. Vabbè, ma parlare non c'entra un cazzo con fare, poi. Appunto. Tu lui dici, parla e non fa un cazzo, poi. È come tutti quelli che parlano. Vabbè, senti, ma tu le faresti le Olimpiadi a Napoli oppure è una follia? Io sono contro le Olimpiadi. Ah, ecco. Totalmente contro, come bene, principio, ottimo. Perché è l'apoteosi della droga. Avete visto adesso anche salta fuori. E poi non mi piace la competizione di teste di cazzo che corrono drogati. O si lascia libera la droga. Vabbè, quello è un altro discorso, quello del doping, ma in generale le Olimpiadi. O si libera il doping, perché intanto è libero, intanto è l'ora che è libero. Si libera il problema del doping, allora va bene le Olimpiadi, allora sarà interessante vedere cosa succede, o se no non si fanno le Olimpiadi, perché è un imbroglio. Vabbè, ma lasciamo perdere il doping, ma secondo te vanno fatte le Olimpiadi a Napoli? Ma no, ma cosa vuoi che facciano le Olimpiadi a Roma, non sanno neanche organizzare l'Italia, figurati. organizzano le Olimpiadi, dai. Pure Napoli si è candidata, però, anche Napoli. Appunto, Napoli, le Olimpiadi di Napoli sarà l'unica cosa divertente per le Olimpiadi di Napoli, dai. Perché è divertente? Scusa, non ho capito. E invece del lancio del, non so, del disco, stiamo il lancio della pizza. Il lancio della pizza, io ho detto altre cose. Senti, ma la tua amica Raggi è messa male a Roma, eh? Cioè, è messa malissimo. Ma non è vero. Ma come non è vero? Come non è vero? Non è messa... può essere peggio di quello che c'era prima. Ma che c'entra? Non può essere peggio di quello che c'era prima. No, cioè. No, no. Ma chi l'ha detto, dai, che non può essere peggio? Tutti contro, la Raggi, ma lasciala fare. Lasciala come? Fare, lasciala fare. Ho capito, lasciala fare. Tu dici comunque non... No, ma gli altri erano dei ladri. È pieno... Madonna, peggio di così non può essere, dai. Senti, ma tu lo conosci il governatore del mondo De Luca? Il presidente della Campania? Sì, l'ho parlato... Quello che dice il webmaster. L'ho invitato un paio di volte alla mia radio. Ma ti piace o no? No, è divertente. Capisci? Sì, niente, è divertente. Non è che mi piace. Non è che tutto ciò che va bene mi piace. Però è teatro puro, dici, no? Esatto, è incredibile. Per fortuna c'è quella gente lì, ci fa ridere, dai. Va bene, ciao, ciao Oliviero, dai, ciao, ciao, ragazzi, ciao ragazzi, divertitevi. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Italia Morale, Italia Morale. Vuole Italia Morale, Italia Morale. La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, Leonardo, provincia di Brescia, vai. Pronto? Volevo tornare sulla questione della ragazza di Napoli. Sì, sì. Come dici tu, chi anche tutti quelli che hanno contribuito alla diffusione di questo video, bisogna tirare un po' l'orecchio anche a Alessandro Milan. Perché? Che una mattina... una mattina intervistavo un genitore di una di queste ragazze che aveva fatto il video. Ma quali ragazze ha fatto il video? Nessuno ha intervistato nessuno, di chi stai parlando? No, un giorno Alessandro Milan nella sua... Vabbè, allora che ha fatto? Non ho capito, ha intervistato chi? Praticamente è saltato fuori, grazie a questa trasmissione, che esisteva una... ci sono dei ragazzi che hanno messo online da qualche parte un file... Io l'ho scaricato ed è pieno di queste ragazze qui, pieno. Cioè, ma di che cosa? Saranno, ma che non ho capito, scusa, quale sarebbe la responsabilità? Non ho capito. È che uno stronzo come me, tipo, non avrebbe mai saputo che esistevano dei Non diciamo cazzate, è diventato un fatto di costume e qualcuno ne ha parlato, punto e basta, dai, su. Vabbè, Leonardo. No, però... Ciao Leonardo, che... non c'è nessuna responsabilità da parte di chi ha parlato di questa cosa qua, chiaro? Di chi ha discusso di questa cosa qua. L'unica responsabilità è di chi ha messo online quei video là, 3, 4, 5, 6 o quelli che erano, dai. Si trova temporaneamente in Italia, Valentina Nappi. Valentina, come stai? Ciao, bene. Mamma mia, che collegamenti. Milano temporaneamente, Valentina Nappi che domani riparte per andare così a Los Angeles. Così vicini e così lontani. Esatto, così vicini, così lontani. Parenzo a Tel Aviv, capito? In Israele. Ma esistono, Parenzo, dei porno star israeliani? Sì, tantissime, sì. Sicura. Valentina, tanti. Esistono porno star? Sicuro di ebrei ce ne sono una marea. Sì. Sì, pieno. Sì, porno star, ma proprio ebrei, ma anche israeliani, oltre che di ebrei. Sì, tra l'altro, di recente certo ho pubblicato un DVD, tipo Jewish Chick, qualcosa del genere. Com'è che si chiama? Jewish? Chicks, qualcosa del genere. Sì, brava, ha perfettamente ragione. Cioè, qualcosa adesso io... Nel mondo... È abbastanza famoso, comunque. Probabilmente è per... seghe puramente ebree, cioè, come dice il signora, scusi, ha detto per seghe puramente ebree, perché si chiama Jewish, come Jewish chic, come chicks, tipo ragazze, capito, cioè praticamente pollastre, no, forse, esattamente per rispondere alla tua domanda, essendo questo un paese libero, ovviamente sì. C'è anche questo, c'è anche questo, beh certo, cioè, no, in realtà è un DVD americano. Ma si girano in Israele, un posto dove si girano film porno, oppure no? Sì, anche mi pare di sì, certo. Tutto si fa in Israele, si può fare tutto, grande libertà. Beh no, questo sicuramente, tutto. Cioè, senti Valentina, ma... uno dei gay pride più importanti avviene proprio a Tel Aviv. Assolutamente, ma ti ha colpito la storia di questa ragazza, mi sembra, no? Hai scritto... Ho quasi pianto. Hai quasi pianto per la morte di Tiziana. Sì, veramente, ancora devo ancora riprendermi. È assurdo che una ragazza decida di togliersi la vita per un pompino, perché il problema è questo. Beh, no, per un pompino. Forse per il fatto un video al contrario, dove un maschio lecca la figa, l'avrebbero invitato, che sì, ne so, oppure il Grande Fratello. Sì, questo è vero, sì, no, adesso Grande Fratello no, il ma il problema è questo, l'hanno ammazzata chi l'ha insultata, l'ha chiamata tra l'altro. Io da adolescente mi sarei potuto trovare la stessa situazione, se cioè? La risoluzione dei video fosse stata più alta, perché mi facevo riprendere tranquillamente. Beh, però tu eri consenziente per il fatto che... Esatto. Cioè, volevi... Ma indipendentemente da quello, il punto non è... Vabbè, lei lo sapeva che... Beh, non sapeva, fino a prova contraria, non sapeva che sarebbero stati diffusi in rete. Sì, no, ma il punto non è quello, è che non dovrebbe fregare a nessuno del fatto che una tizia... fa i pompini, perché i pompini li fanno tutti, porco cane. No, ma, questo signora non è mai stato in discussione. Esatto. Però il problema è che questa signorina non voleva il problema è quello, che il mondo intero venisse a conoscenza di prendere di il cazzo cosa. Nel momento in cui prendi il cazzo, o sei uomo o sei donna, vieni ghettizzato, vieni diritto. No, tu vuoi dire il problema, scusi, è quello. Capisco la crudezza con la quale no, la dottoressa Nappi, ma è la stessa cosa, la professoressa con la Nappi, virilità vuole se dire... lo dai il cazzo va tutto bene. Nel momento in cui per esempio nel porno, perché alcune per diluire sì. la carriera cominciano con lesbo, poi fanno il boy girl e poi vabbè, cominciano... quella è un'altra dinamica. Io no, Valentina, è la stessa cosa. Cioè, che cosa vuoi dire? Sono perdite di virginità, è l'idea che chiavi, vabbè, finché si sa ma non lo sappiamo per certezza, va bene. Nel momento in cui abbiamo la prova del fatto che prendi il cazzo, allora è un problema. Sì, no, ma ho capito, Valentina, però al di là della questione tecnica, diciamo, no? No, non è tecnica, il problema è questo, però purtroppo non possiamo dentro tutti gli slashamer. No, però secondo te, il problema è nato dal fatto che siccome il mondo del web ha visto una ragazza che fa un pompino, e allora è scattata la dagli addosso alla mignotta, questo è scattato, sì, no? O sì, no? Ma certo. Poi immagina a Napoli quali sono le battute, cioè, ma io l'ho vissuto anch'io quando ero una wannabe pornstar, sì. e non una pornostar internazionale, sì. per lo più adesso ricevo, ah brava, come sei bella, come sei buona e bla bla bla, e tutti gli ipocriti che ti vogliono fare le foto e cazzi vari, ma prima io ero solo una troia. Sì, ma per molti lo sei ancora. Ma cosa che mi dà più fastidio. Ma lei ha scelto una professione ed è legittimo. No, ma io sono fiera di essere troia, lo ero prima e lo sarò dopo. E anche quando il porno non mi darà più il pane, sì. e sarò un cesso pieno sarai di sempre pieghe. Troia, vabbè, sarai sempre troia. Sarò sempre troia, mi vedrete sempre con un cazzo attorno. Parezza, che vuoi fare? Il problema è questo. Questo, d'accordo, questo va bene. D'accordo, la sessualità femminile va sdoganata. Che nel momento sì, in cui fare i pompini diventa come l'aria, non se ne fotte più nessuno e nessuno più può essere preso in giro per il fatto che fai sì, i pompini. Però, ma no, ma infatti... è questo. Sì, il problema secondo te è questo qua. Cioè che c'è l'ipocrisia del fatto che le persone, se fosse stato un uomo... diciamo ripreso mentre fa sesso, lo avrebbero fatto diventare un eroe, mentre questa qua l'hanno fatta diventare, la dipingevano come una troia, presa in giro sì, anche dai calci. Soprattutto perché lo stava facendo con qualcuno che non era il suo ragazzo, no, e con l'intento con l'intento di prendere in giro il suo fidanzato, tra l'altro. Però sì, la questione è chi ha messo online quelle robe, scusami Valentina. Ma cioè... no, ma non deve essere un problema. Ma scusa, ma se lei non voleva atti sessuali. Sì, ho capito, tu non puoi immaginare un mondo è in cui un'altra tu... questione. Sì, io immagino un mondo in cui tutti mettono online quello che fanno. Tutti mettono online tutto sì, quello che fanno. Non ce ne frega un cazzo, soprattutto, cioè dove la gente scopre. Ma ho capito, ma e non ce ne frega un cazzo. Ma ho capito, ma è un mondo, ma è un mondo. Come mangiare? Ma quello posso essere d'accordo, ma Parenzo, per esempio, non vuole che i suoi atti sessuali in camera siano. Ma io non voglio neanche che mi riprendano, mentre invece se io venissi ripreso 24 ore su 24, ma mi darebbe un fastidio per questo. Molta gente non vuole il Grande Fratello del sesso. Quel e che sono faccio cazzi ogni minuto. Suoi, sono cazzi di Parenzo. Beh, ho capito, però uno... infatti non posto niente, posto quello che decido di postare. Parenzo, quando decido di mettere crepa, su Twitter. Ce ne frega un tubo di quello che vuoi, lo slut shaming deve finire, i pompini devono essere come l'aria, punto. Ma quello... Che vuol dire? Che cos'è che deve finire lo, scusami? Lo slut shaming. Cioè, che vuol dire? Sì, tra l'altro, ridere le troie. Ah, ecco, questo. Ah, slut come puttana, sì. Troie, sì. Sì, per sì, ho capito. Dirlo non in italiano. Sì, ma ho capito, dici di non devono essere derise. Ma io sono d'accordo con te, infatti io non è che la pigliavo per il culo. Un sacco di gente l'ha presa per il culo e lei pare che... Io ho apprezzato il video, tant'è che l'ho mostrato, l'ho ricevuto anch'io. Sì, perché lo trovavo, l'ho mostrato a un artista che fa parodie, sì. E ho detto, guarda, noi dovremmo fare qualcosa in questa direzione, cioè il sesso che è divertente in sé, invece già si fa la parodia. Vabbè, ma perché, se, secondo te, chi l'ha ammazzata? L'ha ammazzata la rete, l'ha ammazzata l'ipocrisia, l'ha ammazzata il moralismo, l'hanno ammazzata... Sì, no, io mi considero moralista. I napoletani, che ne so, i napoletani che l'hanno presa per il culo, perché... Io Scemer l'hanno ammazzata. I? Gli Schemer, quelli che dicono, ah, se puoi solo fare pompini, cose di questo tipo, sei solo una troia, sì, che sì, poi sì. Che cazzo significa, boh? Boh, fermi tutti, c'è il traffico, poi torniamo, resta lì, so che c'hai il festival là del cinema stasera, un film da presentare delle ragazze del porno, però resta di altri 5 minuti, aspetta. Non capisco perché tra un traffico e l'altro c'è di mezzo la zanzara, non si potrebbe fare tutto traffico? La zanzara. Oh ragazzi, adesso non ce la faccio più, devo sbroccare, eh. Adesso ho sbroccato Parenzo, non ce la faccio più. Cioè, tu ti rendi conto, primo, il collegamento del traffico di prima, io non dico mai un cazzo, ma quando è troppo, il collegamento del traffico in viva voce. Porca la puttana maledetta in viva voce. Cioè, non era col telefono, ma hai sentito pure te da lontano a Tel Aviv, hai sentito qualcosa che non andava? Lo sentivo, però ero distratto perché sarei più interessato a sapere cosa succede sulla Rehov Ayarkon. Sì, questo è vero, questo è vero. Un collegamento praticamente in viva voce, porca la puttana. Ecco, ma io vorrei sapere cosa succede qui. No, primo, questo è vero, però il traffico a Tel Aviv adesso già non ce ne frega un cazzo di quello, no, di Milano, non possiamo. Mi chiedi un parere, gli dico, guarda, seconda cosa, no, seconda cosa. Sarei più interessato a sapere quanto traffico troverò tra poco. Seconda cosa, ma secondo ristorante, ora che qui sono praticamente già le 21 e 22. Vabbè, aspetta un attimo, fammi finire, che sennò mi fai manca il pathos. Allora, e poi, secondo te, a uno che sta a Vicenza, a Verona, a Trieste, a Roma, del fatto che una parte della tangenziale di Milano questa sera viene chiusa, ma che cazzo gliene frega? Perché lo dovremmo sapere? Transiti da lì, vedi chiuso e te ne vai a fare in culo in un'altra strada. Anche se lo sai, non te ne frega nulla, non ti cambia nulla nella vita, porca la miseria. Ma com'è possibile una cosa? È chiusa la tangenziale dalle ore 22 alle 6. Ma sti cazzi che è chiusa! Vada ai matti, o vada ai matti. Valentina, aiutami tu, Valentina, aiutami tu. Vabbè, allora... Ah, fare cosa? No, niente, per carità. Senti, ma io... volevo chiederti una cosa prima di lasciarti, ma recentemente Rocco Siffredi, sai che hanno fatto un documentario? Avete mai avuto una storia voi tu? No, non ci siamo mai visti, non ci siamo mai visti, Valentina. Ma perché? Valentina mica ha storie, quella fai film porno. Ah, già abbastanza figa, preferisco darla comunque a chi ne ha bisogno. Cioè, allora, aspetta, ho già abbastanza. Com'è la scusa, questa massima, questa, diciamo, questa, possiamo dire che è una sorta di aforisma. Ecco, questo aforisma, però Valenzo, che sei più acculturato di me. Com'era? No, lo vogliamo ripetere? Scusa, Valentina, se ti faccio ripetere le cose. Ma, probabilmente, dato che hai una certa popolarità, hai già abbastanza figa. Sì. Preferisco darla a chi ne ha bisogno. Capito? Cioè, avendo questo tua... è molto di sinistra, però. Sì, beh, sì, lei... ma infatti la figa comunista sempre. Cioè, tu hai una figa comunista, cioè la dai praticamente. Se uno ti chiede, per esempio, di scopare, tu lo fai? Dipende. Se tu incroci una per strada uno. Una sega, se me lo mettono in mano e mi trovano, non la nego a nessuno. Non la nega nessuno. Beh, adesso mi sembra un po' esagerato. La cosa peggiore è che devo fare? Oh, è che a volte. Sì. Proprio quelli che ti trombi, non dico per... cioè, così, in amicizia, va? Giusto perché, ma sì, dai, perché no? Sì. Poi ti le dicono frasi tipo, però sei troppo disponibile sessualmente, sei troppo roia. E tu dici, cazzo, ma io non ti volevo nemmeno scopare, l'ho fatto... L'hai fatto per generosità. Per generosità. L'hai fatto perché sono convinto che la figa deve essere, no, a disposizione di tutti, no? Giustamente, quasi di tutti, o comunque il sesso deve essere vissuto in questo modo, e poi tu mi dici che sono una mignotta, praticamente. Cioè, è una roba incredibile. Senti, chi ma... Chi ha detto? No, dico questa persona, no? Che... Ah, sì, no, infatti. Capito? Senti, ma non ho capito, tu hai scritto sulla vicenda di Tiziana Cantore, domani tutti in piazza a fare pompini in suo onore, non ho capito, ma davvero domani pensi che qualcuno... No, purtroppo no, anche perché dopo domani parto per gli Stati Uniti, però mi sarebbe piaciuto organizzare una sorta di pompino di massa. Organizzare qualcosa, tra l'altro adesso che con l'atto c'è un luogo pubblico, ci si becca soltanto una multa, sì. Mi piacerebbe fare tipo un crowdfunding. Per chi? Per pagarmi la multa e fare atto scena in luogo pubblico a go-go. tipo andare in giro nuda per strada, abbracciare le persone a caso, cose di questo tipo. Sì, potrebbe essere un'iniziativa sponsorizzata anche dalla Zanzara, Parenzo, che dici di questa cosa qua? Sì. Cioè, potrebbe essere il problema è che ci vuole anche poi una piccola tutela legale alla signora, oltre che... Ma quello dice ci vuole una tutela legale, ma quello vabbè, quello non è un problema. No. Penso che gli avvocati ci saranno, ma è una, cioè, scatta la multa amministrativa in quel caso. Scatta la multa. Vabbè, bisogna pagare la multa. Tu dici pagare la multa. Sì, ma che bisogno c'è andare in giro la cosa ridicola. Sì. La cosa ridicola. Se lasci i sacchetti della spazzatura sulla tangenziale, multa fino a 200-300 euro. Sì, sì. Atto c'è nel luogo pubblico dai 5.000 ai 30.000 euro. Cioè, ragazzi, ma che cazzo di paese viviamo? Lo so, purtroppo è un paese moralista. Scusi, uno non è che può grazie, governo Renzi. Se uno vuole girare nudo ci sono dei posti, dei campi nudisti dove a casa propria può star nudo. Ma io perché devo vedere uno che gira nudo per strada, scusi? Lorenzo, hai rotto il cazzo, te lo dico. No, ma voglio dire, per carità, va benissimo, ma non ho capito in quale mondo vive lei, in cui uno può girare nudo per strada. No, però lei dice... naturalistica, lei... però ci sei nato nudo, se ti fa schifo l'essere umano, non mi fa schifo per niente, ma voglio dire, l'uomo si è anche evoluto, se vuole star nudo, ci sono dei posti, siamo campi nudisti. Dove può stare nudo tranquillamente? Certo, perché è una cosa fascista che ci dobbiamo quello nascondere. Quello è il ghetto. È pieno in Croazia, è pieno in tutto il manco in Italia, è pieno di campi nudisti. Senti, non è detto che uno voglio chiedere no, esce dalla metropolitana e trova uno nudo, ma perché? Ma resta non... Israele. Senti, ma tu sei Trump, ti piace o no? No, guarda, sono molto molto preoccupata. Anche perché ha detto che infatti credo che spero di riuscire ad avere la green card prima che venga eventualmente eletto, perché temo che possa, almeno così dice lui, vuole bannare il porno. Cioè ammazzare l'industria del porno, tu dici? No, vuole proprio bannare il porno. Ma bannare il porno, come si fa a bannare il porno negli Stati Uniti? È impossibile, cioè uno dice... l'hanno fatto... Tu dici appoggiato... In metà del globo il porno è bannato. Cioè tu dici, spero di ottenere... Rendere legale. Cioè, rendere illegale il porno. Poi, ma sì, vabbè, Trump dice anche un sacco di cose, quindi poi bisogna vedere. Bisogna vedere. Comunque sei preoccupata per Trump, perché potrebbe... Ma non solo per quello, Putin da una parte, Trump dall'altra. Senti, ma... Rocco Siffredi recentemente ha detto che addirittura è stato con una settantenne durante il funerale di sua madre. Secondo te dice certe cose? Dice certe cose per farsi pubblicità oppure sono vere? Per quel poco che l'ho conosciuto credo siano vere. Lo trovo bello farsi una settantenne al funerale della madre, bellissimo. Beh sì, esteticamente diciamo dal punto di vista... Io anche sono stata con un settantenne. Ma tu anche con un ottantenne sarai stata? Cioè... No, ottantenne no. Cioè quando avevi 18 anni sei stata con uno di 70? Sì. Ma così, anche là per generosità, cioè puzzava di vecchio. No, lì era... Beh, non c'è dubbio, era vecchio, infatti. Giusto per provare, ma non per... Tutto stato per i vecchi. No, certo, assolutamente. Era puzza per i vecchi. No, ma gli uomini, i vecchi puzzano un po' di più, diciamo, rispetto agli altri. Comunque, senti, secondo me con Sgarbi potresti trovarti su una cosa, so che non lo ami molto, però recentemente ha detto che praticamente lui non ha mai usato un preservativo in vita sua... E che praticamente l'AIDS. Genio. E l'AIDS, gli eterosessuali praticamente non, è impossibile che se lo prendano, se hanno esperienze solamente eterosessuali. Che dici tu? Cioè, ha detto una cosa del genere. Sì, ha detto così. Ma fa parte dell'Opus Dei. sì, effettivamente è una posizione molto cattolica. Non ho mai usato il preservativo. Ha detto che. Ma secondo me non so più che cazzate sparare per tirare avanti. Io non guardo la TV, quindi non so più se va spesso in TV. Però mi viene da pensare, non so più cosa cazzo dire. Senti, un'ultima cosa. Ma incorrendo i tempi. Un'ultima cosa. Una volta hai detto che i napoletani, che si incazzano molto su questa cosa, sono a letto, non funzionano molto. Che è una generalizzazione. Secondo me. Da Roma in giù, sì. Soprattutto più sono carini, più sono chiusi mentalmente. Più sono carini? Più sono? Carini, sì. Cioè, magari un ragazzo è molto carino, però poi è una palla a letto. Cioè secondo te... Questo lo faccio, questo così, quello colà. Vabbè, ma adesso questa è una generalizzazione, ovviamente. Cioè, non è che... Ragazzi, sto parlando della mia esperienza personale. La tua esperienza personale, che è notevole. Che è notevole. È il suo campione Insta. No, vorrei aver scopato di più, in realtà. Vorrei avere più esperienza, però... La mia personale. Cioè, scusa, in tutto, con quanti uomini mestiere o no sarei stata fino adesso? Cioè, che cosa? Con quanti uomini sei stata fino adesso tra porno e. Non l'ho mai contato. Ma che ne so, ci saranno 1.000, no? Cioè... No, penso di essere sotto i 1.000. Poco sotto i 1.000. Comunque sono con il nazista di Illinois. Quello che sta guidando. Che sei... Ah, sì. Chi è? con nazista dell'Illinois. Chi era nazista dell'Illinois? Gian Pietro Belotti. Ciao Cruciani. Ciao Gian Pietro, ciao, ciao. Non mi ricordo chi cazzo è Gian Pietro Belotti, però ricordami chi è Gian Pietro Belotti, scusami, perdonami. Gian Pietro, chi sei? Io, tu, chi sei? No, passami Gian Pietro un attimo. Pronto, dimmi tutto. Ciao Gian Pietro, scusa, non mi ricordo bene chi sei, scusami se... Vai serenissimo. Gian Pietro Belotti, il ragazzo di Bergamo che è sceso in piazza vestito da nazista, si è beccato la denuncia per apologia di fascismo, con le sentinelle in piedi. Capito, capito. Come? Sì. Il gay militante anti-Adinolfi, diciamo, anti-sentinelle in piedi, come no? Dai, certo. Siamo seri, a quanta gente sbatti il telefono in faccia? Non venirmi a dire che non ti ricordi di me. Così adesso non è che sei il genio della musica, cioè sei conosciutissimo. Adesso mi ricordo da quello che mi hai detto. Vabbè, dai, ciao tu, amico mio. Ciao, ciao. Hai portato il telefono a me, Valentina, dai. Ciao, ciao, ciao. Valentina, ciao, ciao, presto. Ciao. Ciao, ciao Valentina, presto, ciao. Lorenzo, hai rotto il cazzo, te lo dico. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. Ciao Cruciani, io sono un NCC, un autonoleggio con conducente. Ieri sera durante la replica che fate intorno all'una ho caricato una coppia gay, omosessuale, e proprio in quel momento in cui ho girato il quadro per mettere in moto l'auto è partita la radio, ok? A volume abbastanza sostenuto, perché io ero ancora sintonizzato su la vostra radio, si è sentita la voce di Sgarbi che diceva: lei si vergogni di prenderlo in culo. In auto praticamente è sceso il gelo. Ai ai ai ai ai ai. Allora David, ti faccio sentire un po' di voci, la Beccalossi, sai chi è la Beccalossi, quella signora bionda che assomiglia anche un po' alla Le Pen, l'assessore regionale della Lombardia, quella di Fratelli d'Italia, da te ribattezzati Manganelli d'Italia praticamente, che sostiene una tesi, sostiene praticamente che bisogna essere orgogliosi di essere razzisti, signora Beccalossi, senti. Ha detto. Senti. A questo punto, se mi danno dalla razzista, quasi li ringrazio di adularmi, perché sono orgogliosamente razzista a favore degli italiani. Arriveremo tra poco a dover chiedere dei mediatori culturali a favore degli italiani. E poi ancora vogliamo ricordare Feltri, Brunetta è come un chihuahua. Vabbè, con Brunetta non butta bene, vedo, Ante è un trionfo. Certo, ha ragione lui. A farlo abbaiare, quindi va bene. Ma come sei riuscito a farlo abbaiare addirittura? Sì, perché Brunetta è come quei cagnolini, non mi ricordo come si chiama, Chihuahua. Ecco, sì. Che continua a abbaiare, in fondo morde solo le mosche, quando riesce a acchiapparle non le acchiappa mai. Allora, preso dalla scorsa settimana, ragazzi, come cazzo si fa a passare dalla... È veramente un'impresa titanica. Adesso prossimamente la inviteremo, caro Parenzo, perché voglio capire cos'è che ti porta nella testa. Per carità, c'è il massimo della libertà anche di fare i pompini, come sappiamo, figuriamoci di aumentare la dimensione del proprio seno, no? Te la ricordi la nostra amica Cipriani? C'è la nostra amica, quella che è stata accusata anche ingiustamente di aver fatto parte del Bunga Bunga, eccetera. Era eccetera. Delle pupa e il secchione, mi pare. Lei, sì, no? La pupa e il secchione. Perché ti sento così bassa? Sì, prima ti sentivo squillante, però. Sei un po' stanco dalla nottata israeliana che ti si para innanzi. Comunque, la Cipriani. Perché devo ancora andare a cena, vecchio mio. Queste sono quasi le 10. Allora, la Cipriani, sì, ti trattengo, lo so, scusami, perdonami. La Cipriani, no, che giusto, dice, bravo, che vuole passare dalla settima alla nona. Dalla settima alla nona. Adesso io voglio dire, ma non basta la settima? Cioè, perché uno deve andare alla nona? Cioè, cosa significa andare alla nona poi? E cosa chiama? Il Ministero delle Infrastrutture, delle Grandi Opere? Ma non lo so chi cazzo chiama. Chiamerà un chirurgo che la fa passare dalla settima alla nona. Cioè, tu già ti sei fatta la settima. Vabbè, ognuno, sai. Cioè, poi passi alla nona. perché forse vuoi partecipare a qualche concorso, pensi che puoi restare nel mondo dello showbiz solamente mettendo queste enormi mammelle sempre più grandi, come nei concorsi, no? Concorso per mammelle più grandi. Vabbè, Cipriani, sì, può essere che ne so, questa sarà la questo ragione. Il motivo. Francesca Cipriani ha deciso di passare dalla settima alla nona. Mamma mia. È un'ottima idea, quindi hai quasi deciso? Sì, Barbara, di una taglia vorrei aumentare. Vabbè, insomma, l'importante è che lo voglia tu. Sì. Beh, se uno non lo volesse sarebbe anche piuttosto bizzarro, no? Cioè, vabbè. E poi ti faccio ascoltare una cosa, caro Davide. Sentiamo. Qualche giorno fa, signor Barisoni, conosci il signor Barisoni? Massimo rispetto, lo saluto anzi. È vice direttore di questa radio, ma è stato ospite, sai quella trasmissione, quella della sera di Mannoni, no? Quella di tutti i G3. Come no? Linea Notte. Linea si Notte. Sì, a un certo punto, senti questa cosa qua. Senti che è spettacolare, senti. Con Sebastiano Barisoni, vice direttore di Radio 24, conduttore tutti i giorni, meno il weekend, di Forum Economia alle 17, no, Sebastiano, 17. Alle 17, che intanto saluto. Praticamente ma non è Focus, no, scusami. Esatto, non sapeva un cazzo Mannoni. Forum, lui si arrabbia sempre che pensa che sia uno, che invece è Focus, no? E stavolta non abbiamo detto noi Forum, no? Vada no, a Forum. Ma è Focus si chiama. Ma sì, è Focus, certo, poi non sapeva a che ora conduci, c'aveva un foglietto scritto là davanti. Non si ricordava più, vabbè, è incredibile. Vabbè, dai, chi c'è qua? Chi c'è? Andrea Carrara, dai, Andrea Carrara, vai, anzi, poi Davide da Cagliari, vai, Andrea, dimmi. Pronto? Sì, Andrea, dimmi, sì. Dimmi. Volevo chiedere, prima ho sentito che dicevi che fascismo e comunismo sono la stessa cosa. No, ma anzi, il comunismo ha fatto più morti del fascismo, in teoria, del nazifascismo, molti di più. Se tu fossi un In termini numerici. Ma se tu fossi un conduttore svedese... E allora dici fascismo e comunismo sono la stessa cosa, perché da una parte c'ho Mao Zedong, dall'altra c'ho Mussolini. Però in Italia fascismo e comunismo non sono la stessa cosa. Senti, amico mio, a me non me ne fotte nulla, questa è la teoria di Parenzo. Questa però... è la teoria di Parenzo, è una teoria ridicola, è una teoria ridicola, che Parenzo quando vuole fa quello mondiale, in Italia, quello internazionale. Mussolini è stato quello che metteva gli ebrei. Ma questo non treno, nessuno lo mette in dubbio, infatti non parte ci sono De Gasperi, sì, ma non facciamo Pertini, queste discussioni storiche, non me ne può fregare di meno. Senti, una ragione. No, amico mio, un altro discorso. Io guarda, ma fai quello che ti pare. Non me ne può fregare di meno. Sì, ma successivamente, il discorso è molto semplice. Comunista ha preso tangente, ha fatto non me ne frega niente della storia. Non mi rompere i coglioni sui discorsi storici. Allora, l'unica cosa certa è che se il signor Di Canio, parliamo di cose più attuali, di quello che è successo, se il signor Di Canio, che è stato sospeso da Sky, avesse sul braccio tatuato la falce e il martello e l'avesse mostrata durante una trasmissione, non sarebbe successo nulla. Per forza, e permettimi di dire, permettetemi di dire, tutte le persone. Hai detto quello che pensi, che fascismo e comunismo non sono la stessa cosa. Bene, adesso taci, non mi rompere il cazzo. Allora, la cosa fondamentale è questa: che se ci fosse stato questa falce e martello sul braccio, non sarebbe successo niente. Non sarebbe successo niente, perché c'è una grandissima ipocrisia. Quello è andato in televisione, secondo me senza rendersene conto, secondo Parenzo sì, con quel tatuaggio scritto Dux, ed è stato sospeso. È una cosa talmente vergognosa che io non ci voglio nemmeno pensare. Cioè, uno oggi non può in una trasmissione mostrare un tatuaggio fatto magari 20 anni prima, perché c'è qualcuno che ti sospende. Poi uno quindi può dire, se io mi faccio un tatuaggio con scritto il lavoro rende liberi e vado in televisione e lo faccio vedere, in fondo è una frase e quello dice bene. No, ma che adesso, ma che vuol dire? Cioè, ragazzi, ma non è la stessa cosa. C'era scritto Dux, dai, non c'era scritto una cosa che inneggiava il nazismo, dai, è diversa la cosa. Ma quello è fascista, quello è fascista, lo sa. Ma quando se ne accorgono questi di Sky che è fascista? Quando se ne accorgono? Di avere un lavoro ben remunerato. Che cosa vuol dire? Ma quello è fascista, saranno cazzi suoi, è stato fascista, è fascista, sono cazzi suoi. Che vuoi fare? Vuoi mandarlo? Non mi interessa. E che può fare? Che abbia il suo cazzo. Dire che fascismo e comunismo in Italia stai zitta così. Chi è? Chi è? Chi è? Mio figlio che dopo quanti anni ha tuo figlio? Non ho capito. 6 anni. Che gli insegni queste cose perverse? Che il comunismo in fin dei conti era una cosa buona, no, giusta? No, lui guarda i cartoni animati, non gliene può fregare di meno. Fonte di salvezza. Fagli sentire un po' di Zanzara, così impara qualcosa, no? Sì, sente la sera quando lo porto in bene, giro. Molto bene. Dell'ora. Senti, amico mio, lo so quello che dici tu, che in Italia non è stata la stessa cosa. Che in Italia, lo so, ma non c'entra niente. Qui stiamo parlando dell'ipocrisia ancora, di signori, per carità, grandi professionisti, Sky, grande rispetto, ogni tanto ci vado, per carità, se non mi chiameranno più dopo queste cose qua. Però io dico una cosa, però io sono sempre abituato a dire quello che penso. Trovo questa cosa che è di una grande ipocrisia, una enorme ipocrisia. Sapevano, è un discorso, sapevano del suo. Cosa, è un vabbè, ma lasciamo perdere la storia. Sapevano che era fascista, è stato fascista, eccetera, eccetera, e va bene. Sapevano che era fascista, eccetera. Non devono rompere i coglioni a Di Canio. Se lo devono cacciare, lo cacciassero per altri motivi. Non perché qualche associazione, qualcuno su Sky protesta o qualcuno manda sul web. Basta qualche stronzo che protesta sul web e una televisione sospende un professionista bravissimo. Ma di che parliamo? Dai, su. Ma può anche essere vero questo. No, ma è solo per questo. Solo per questo. Ma dire che sono la stessa cosa è proprio... non sta in piedi, in Italia non sta in piedi. Vabbè, adesso la storia, amico mio, non me ne frega niente, so solo che in generale il comunismo ha fatto un sacco di morti, molto più di quanto non abbiano fatto i regimi nazifascisti in tutto il mondo. Davide da Cagliari, dai. Pronto? Davide, dimmi. No, volevo ricollegarmi a quel discorso di Tiziana. Che c'è? Che poverina, che è successo? No. A parte che sono già spuntati su internet Je suis Tiziana. Non ho capito, scusami Davide, che vuoi dire? Voglio hai detto voglio parlare di Tiziana. Vabbè, parliamo di Tiziana, no, però dico, di quello che devi dire. Sono già spuntati su internet l'immagine con Gesù e Tiziana. Vabbè, Gesù e Tiziana, ma su internet c'è di tutto, no, ragazzi, ci sono le bestie, ci sono i filosofi, c'è gente che parla di ingegneria, c'è gente che parla volevo ricollegarmi a un ingegneria che aerospaziale, fatto. C'è gente che parla di puttanate, c'è gente che fa i film porno, su internet c'è qualsiasi cosa, non è un mostro, c'è qualsiasi cosa su internet, di che parliamo? La premessa è che prima ha chiamato un tipo e ha detto, ah, ma se lei fosse stata più attenta, bla bla bla, poi comunque queste cose alla fine... le vedono tutti, cioè io per la mia esperienza ho ma non le vedono tutti, ragazzi, tu cosa hai caricato? Sei più interessato adesso? Beh, se mi dici cosa hai caricato, le esperienze personali mi interessano sempre, certo. No? Infatti. Allora? Caricato io un video col permesso della mia ex fidanzata e comunque non ho mai visto nessuno. Beh, dove l'hai caricato? Ovviamente dipende dai video che fai. Se fai un video dove ti fai una scopata con la tua fidanzata a volto coperto, chi se ne frega? Adesso non so che tipo di video hai messo tu. Un video del genere, però comunque che cosa hai fatto? Che tipo di video? Appunto, cioè non c'è, là c'era la faccia, quella che diceva ti faccio cornuto, ha fatto più video, riprendi col video, l'hai fatto il video, l'hai ripreso il video e voleva cornificare praticamente il fidanzato, è normale che poi... No, ma il suo discorso era che comunque a prescindere dal tipo di video che fai si viene a sapere. Ma non è vero che si viene a sapere. No, infatti non si viene a sapere, se sei un po' accorto non succede, come è successo a me. E non ho capito. Beh, che cosa hai fatto concretamente? Non ho capito. Tu che cosa hai fatto? Io semplicemente avevo postato un video. E in questo video che cosa c'era in questo video? Io che le venivo sulle tette. Tu che venivi sulle tette della tua ragazza? Vabbè, sì. Amico mio, se ti piace così. Ma no, infatti. Ma questo è curioso, perché l'hai postato Urbi e Torbi? Spiegami. Cioè, tu hai fatto un video in cui vieni sulle tette della tua ragazza. Vabbè, ognuno fa quello che vuole nella vita. Per e fai un video. Di ma perché non l'hai lasciato, come dire, nella disponibilità tua e della tua fidanzata? Spiegami, perché l'hai messo a disposizione di tutti? No, ma è curiosa questa cosa, per carità, se l'hai fatto. Siete esibizionisti, vabbè, cioè volevate Non io e lei. E lei esibizionista. Con noi come esseri umani. Vabbè, ma voi lo volevate fare però, di metterlo a disposizione di tutti, la cosa è diversa. Cioè avete fatto un video 8 con un atto sessuale, che adesso non ripetiamo, sennò Parenzo mi dice, no, entri troppo nei dettagli, ma è un dettaglio di cui non ci frega niente in questo momento, che cosa ha fatto lui concretamente con la sua ragazza. Nulla. Hai fatto un atto saperlo. Sessuale? No, non lo volevo sapere. Volevo sapere, diciamo, la descrizione generica. Tu sei andato nel dettaglio, va bene, d'accordo. Davide, allora, la cosa è che tu e la tua ragazza, penso che eravate, come dire, no, entrambi consapevoli di quello che facevate, giusto? Certo. E dunque sono casi diversi, è un caso diverso da quello di Tiziano. No, certo, è un caso diverso. E allora che cazzo mi hai chiamato a fare se il caso è diverso? Non succede che non... Ma allora che stai attento, tu l'hai voluto fare! Vabbè, ragazzi, infatti. Sono disperato io, Valenzo, sono disperato. Buona serata, buona cena. Addio. Buona cena, addio. Dillo più forte, addio. Addio, addio. Addio, ciao. Zanzarosi, andate a fare in culo.